andiamo. Billy. E beh, Brigido. Sì, biondo, mi ascolti, sì. Ehi, Ami. Andare, Natali. Sì, appena arrivato sono tonto, cazzo, tonto, sorto di più. Sempre con l'antenna sotto il letto, sì. Ehi, perché non mi ascolti? Sì, ti ascolto benissimo. Andare, dai, importante che mi ascolti. Poi degli altri, se non mi ascoltano, peggio per loro. Ehi, se non ci ascoltano, peggio per loro. Non ce ne sono problemi. Quando non mi ascoltano, prendo e spago il baracchino. Io mi sono uscito adesso da cucina, ero in cucina, ero sentito che stavi chiamando. L'azienda dove lavorava il marito, perché stavo facendo una diminuita di gol di sugo. E io adesso mi mangio una pizza, mi mangio una bella pizza. E da dove si go, anche se ho guardato proprio un sacco, sacco. C'ho la testa che cazzo mi sta fumando. Figurati. Non ci credi, che c'ho la testa che non so neanche da che dove cazzo è la testa mia oggi. Sì, è un giudizio che hai fatto, si è diventata va, cazzo di zinco e zinco. Poi cazzo c'ho questo cazzo di gotta che mi è venuta attorno. C'ho un dolore al piede, cazzo, insopportabile. Mamma mia, la malattia di Ricci, chi c'è? Non mi è passata l'estate scorsa, non mi è venuta, una settimana mi è durata. Cazzo mi ha duro. La carne, non mangiare roba di carne, in bianco mangia. Ma chi se no è un casino. Ehi, affettate carne, riaffettati e la carne. Infatti adesso per un po'. In bianco devi mangiare roba leggera, a chi se no ti butti. Signor Vincenzo, Mara, devo dire che non deve essere facile per loro, e quella lì è la carne, gli affettati che fanno venire quella malattia, ma la sorte lo fanno per amore di cos'è la carne. Mi sono sentato un secondo che sto guardando qua in cucina e mia moglie stava dicendo penso che era la carne, gli affettati che fanno venire quella malattia. Sì, la carne li affetta perché mi aveva prescritto la dottoressa gli antibiotici. Adesso mi sto prendendo, adesso dopo mi prendo un Auli, perché non è gonfio, però mi fa male, capito? E mi prendo questa Auli per passare il dolore. Ho preso stamattina una, che cazzo è un gamine di zuppo. E ho capito. Per carità, cazzo, ma male che domani sono dalle 2:30, almeno dormo un po', cazzo. Non deve mangiare più di queste cose per un po'. E ora stavi dicendo, Manuele, che stavo parlando con mia moglie. Ho detto, meno male, domani sono alle 2:30 di servizio, 2:30 e 10:30, ma manco dormo un po'. E infatti almeno ti riposi. Non si può andare avanti così, cazzo. Non si può. Cosa ti ha detto lui quando ti hai trovato di Alessio colpito, pure bruciato praticamente vivo lì a casa? Che cosa ti dice? Ma tocca che ti gli dorma che si antibiotici così. No, adesso vediamo un po' quando è secondo me se mi passa col coso o chi che cazzo è, se mi passa, se no mi faccio prescrivere gli antibiotici. Sì, infatti, a bello di ti bacia così. Adesso vado e mi faccio un bel caffè, così controllo anche il sugo. Ragù ho fatto, alla bolognese, buono. E io ho fatto ieri. E infatti, io la giubbattu stasera, la giubbattu a chi ci manda nel venda sta cosa. Ma io ci faccio già adesso, non lo so, Manuele. Le registrazioni. Faccio già adesso, ero in cucina quando ti ho sentito, stavo facendo il sugo, ti state chiamando. Di riposo mi sa di lui. Non so, guarda, farmi il caffè io. Alle 10:30, alle 5:30 ero già attorno in piedi. Sì, per forza. La luna è abituata a fidarsi di Ghizzo. Io non mi sto con i raghiti gira, mi scende da voi non trovo più. Ma io stamattina ero sveglio già dalle 5:10 ero già sveglio perché mi faceva male questo cazzo di piedi. Figurati. Vabbè, adesso vado in cucina a farmi il caffè, dai, che devo controllare anche il sugo. Sì, vai tranquillo, Natale. Sì. Billy, oh yeah! Bella freccia, bella croccante. Giulio, attento, Giulio scendi letto. Billy! Ciao, va, che mi ci butta in piscina, va. Guarda a tutti. Basta che tu piedi di notte e un palo verde di fronte alle casette che ci, alle bigliette che ci sono qua, e non lo stavo mai usando, è buttato lì, nel senso che in piedi prendi una mora di quelle, lo tagli dalla base e l'ho fatto che caricato nel camioncino, ce lo porti nella tua villetta, non è quello il problema. Intanto sono a Padinchibi. Ma ti pare che devo tirare quella mola, tagliare un tubo, usciamo a risare. Ah, poi se allora sei tu quello che togli l'autoferox, eh? Ah, è abbandonato, è abbandonato almeno 7 anni quel palo, capito? Però è nuovo, capito? È di colore verde, è nuovo. Hai capito? Tutto lì. Non lo so. Ci vuole molto non tagliare con la mola dalla parte all'altra. Ci vuole un camioncino, caricatelo, e mi sembra che non ha 15 di metri. Nulla, cazzo, 15 metri. Che camioncino ci vuole? Ah, che casino, Antonello. Oh, iaia. Quello voleva tagliare in due, allora sì, e poi si metteva un coso all'interno e lo facevi unico, lo saldava e ciccia, vuol dire qua in campagna. Indiex lupo. Sono lupo, cosa vuoi dire, carica? Allora, si mette, ti piazzi, è tutto d'acqua e ce l'abbia in Napoli a un certo punto. Ciao, ciao, sei venuti piazzati. No, in tre volte, pesa un po', te attacchi. Io voglio mettere 12 metri attorno a me, due pali da 6 metri fissi. Poi ci va col pezzo per dominocinti in mezzo e c'ho gli infili dentro. E poi sollevi tutto. Avanti il break. Ciao, Uranio. Santiago 8, la rete 5 da parte mia. Qua sei segnale 9. Sei più basso di quanto ti ascoltavo prima, Uranio, è la verità. Quindi ti sei abbassato, non so se hai cambiato casa o cosa ti è successo, ma comunque ti sei abbassato. Ecco, Uranio, dimmi di radio come mi stai ascoltando in questo passaggio e in questo passaggio. Quindi la radio com'è adesso? 1, 2, 3, prova di modulazione. Sto usando un microfono al tavolo, Sciure, dai, penso che lo già lo conosci. Ma ci conosciamo anche noi in verticale. Sono Tonino Carosacchi da Sassari. Ok, roccio. Grazie per il controllo. Avanti, Antonio. Sì, ok. Comunque, se io ho qua un animo, la verità, dovete arrivare più forte. Non so cosa ti è successo, ma se si è capito zero, magari di abitazione, quello che è. Prima arrivavi 9.10, 9.15, si è abbassato. Comunque arrivi lo stesso, a Sassari. Anzi, una volta eri uno dei più forti, arrivavi 9.20, qualche cosa. Adesso ti sei calato la pappa, diceva quello, avanti, così. Io ho un superstar 5501, se tu cerchi su internet sai cosa ho, e io vorrei fare scambio perché non lo utilizzo, non me ne frega niente, ha un frequenzimetro e ha tutto il resto. Avanti, Uranio. Ti sta mandando, mi dice il tuo 57, dimmi, 126 euro da Alibaba, di qua di banda 100 watt, VUHF, basta diratelo, l'ho messo su internet l'altro giorno. Poi c'è un altro, cioè mi ha parlato, l'ho messo dentro su Facebook, dove ho messo anche l'altro, quello là, lo stavano a poco prezzo addirittura, sto lì. Buscati l'857B, guarda, si è a posto, è fatto 13, non c'è bisogno di avere nessuna altra cosa, c'è trovato un'uscita, AM, FM, banda laterale, qua di banda, è la bomba, troppo pensare anche in macchina addirittura. No, Antonio, non mi interessa questa cosa qua, io stavo via a Roma che non mi frega niente. Questo su internet, quello lì da costava 800 e passa 1000 lire, fate il conto. Infatti mi ha detto anche Marcolino, cioè, cazzo, costa un bel denaro, capito? Io non lo so utilizzato che non me la funziona, cioè, io se riesco a fare scambio di qualcosa, lo do via, non me ne frega niente. Per tenerlo fermo, accendere così per bellezza, vedere sì, me ne sono impostato da quello che voglio io, però non mi interessa. Ah, beh, no, se lo vuole Orario, se lo prende, quello non è problema. Dipende da lui. Ma non ne ha voglia. Magari ti fa l'offerta e se lo prende. Beh, io non gliel'ho detto, ma non mi ha risposto, forse tu sei allontanato. Avanti, Black. Sì, dai, buonasera a tutti. Non te lo... Ciao Gianni, ben sentito, saluto bene a te. Buonasera anche a voi, dai, vi stavo un po' ascoltando perché stavo facendo roba, adesso mi sono fermato un attimo. Ok, già va bene. Ecco, niente, non riesce ad allargare a me. Già dai, non ti preoccupare. Ci mancherebbe, ce la dai. Quando io ci ho messo 140.000, sai la fila che c'era a casa per il 1140? Anche Gianni me l'ha chiesto addirittura, di figurati tu cazzo, me l'ha chiesto anche lei, quello dell'escopo, se vuole prendere lui. E gli ho detto, no, ho già venduto, lascia perdere, gli ho detto, non sai mai venire, mi va contro la casa. No, a me non mi interessano più, questi che vado contro uno. Io domani mi riacquisto il coso, il Galaxy e boh, ma adesso non mi interessa, mi basta questo che ho, che ha gli stessi canali del Galaxy, non me la fotti in realtà. Ah, vabbè, quello è la cosa del prezzo, quindi tu sei passato il coso, ma io mi... c'ho questo, c'ho il 2009, c'ho il... come si chiama? Il... come 4.000, basta avanza, basta pari, ci avevo regalato a un amico insieme all'antenna che aveva la pesca, quindi figurati tu, ne avevo anche tu qui di apparecchi, cosa me ne facevo, nulla, ho preferito l'ho regalato, poi dopodiché l'unica cosa che mi sono rimasto sono i cosi, i bue, i portati, mi basta, non mi è rimasto nient'altro. Ecco, ho già fornito i baracchini, vero già. Ma io non so se stai cambiando, comprando, non tengo questi, quello che ci fanno vanno. Ma intanto, se arriva uno dopo di me, ti canali su Vissabu, io questo qua c'è roba che porta di banda laterale, canali alte e basta, o sotto, ma non mi interessa altro. E inoltre dei tanti baracchini, io sono preso per 23 canali, sono a posto così. Uno vai, se lo trovo il Galaxy me lo prendo. Un domani, ma adesso non ci sto neanche, mi avete pensato che non me la potete rubare. Andrà bene, veda. Dunque, fine settimana mi danno la macchinetta e me la vendo a posto, la Clio. Te lo stavo per chiedere io, non te l'ho ancora finito. No, vero, poi di lavoro, la verità, e io non sono il tipo che vado là, dico, fammi la mia, no. Ho detto, con calma, già c'ho la tua macchina, non ti preoccupare. C'ho la Ford Focus, quindi, problemi non ne ho. E quindi, niente, ho detto, fine settimana te la do, va bene. Dove l'hai pagata? La Lintas? Yes. Pagata. Vabbè, te lo da a fine settimana, ma i pezzi sono arrivati tutti. No, i pezzi li ho tutti comprati io e portati a lui, se l'ho messo dentro la macchina mia, no, qua sono tutti i pezzi, scatola guida, poi semiasse, giù di bocciarici, tutte le ruote, e tessine, c'è tutto. Certo, pure semiasse. No, i semiasse te lo danno in cima al giunto, lo trovano staccato, capito, già che si sento, metto tutto nuovo, no? Vabbè. E adesso ho messo un po' di soldi già, no? Dimmi. Sta costando questo lavoro. Vabbè, poi me la vendo, ma non la vedo mica tre soldi, no? Me ne milero vado. Vabbè. Sì, vabbè. Dopo vabbè, a posto. Se ripeto i lavori non c'è altro da fare. No. È tutto ok dopo. Non ho capito, dimmi. Ho detto, stavo pensando, ho detto, te la compro la macchina mia, ma la Clio, ma non c'è patente. Ti ho scusato quello di mai, che ho preso 150 euro, mi sono guardati 300 per le batterie, e io sono a posto. Me ne vado in giro, c'è quattro ruote, le luci, lì c'è tutto, ma ti dà 100 ampere, c'è solo due addirittura, qui sono 24 volt, con due batterie da 100 ampere sono 200 ampere, adesso faccio la sedia di via Calofrice, figurati tu. Vabbè, adesso faccio un attimo di bacon, mi sto mangiando le patatine che mi sono cucinato al forno. Ci messo il prezzo, adesso me le mangio e poi rientro. Subito fra ora e 5 minuti. Va, ok, a fa poco. Ciao, si sente che sei masticato. Ok, buon corix, avanti già. Ehi, Antonello, pappando stai. Che appaga. Vabbè, dai. Anche io mi sono combattuto con le mortadelline. Quelle della DMD sono così buone, Turin, ma buone veramente, saporite. Io stamattina ho fatto il morello, purtroppo ero le ospine, ho visto la paghetta calda, capirai cosa ho fatto. Cosa hai visto là? Ho visto la paghetta calda, ho preso la mortadella e me la sono mangiato tutto. No, io va bene, mangio qualche fettina ogni tanto, ma non è che le mangi chissà quanto. Però veramente sono veramente saporite quelle mortadelline, non quelle a metà, quelle intere prendo. No, io ho fatto fare affettate quelle con pistacchio, appena tagliata, è fresca, è buona, saporita. E sono un mese e mezzo ne ho messo dentro la baguette. Tutto me la faccio mangiare, sicura buona. La baguette calda calda, ui ui ui. Sì, già lo so, l'ho fatta anche io tante volte. Andando bene, bene, vabbè dai. E che ci vuoi fare? Ce l'ho, eh sì. Sì, è giusto, è strano, pare che non funziona il cronologio. Questa funziona, perché non lo vedo la distanza. Sono quelli digitali, vedo che dice anche il tempo, tutto dice. Però ti stavo dicendo, quando c'è aperta la Kobe che via Pasqua, lei andava a fare la spesa lì, aspettavo che togliessero le baguette, poi invece prendevo un etto di mortadella, poi c'avevo il coltello in tasca, il coltellino, mi aprivo la baguette, me la mettevo in mezzo, poi la tagliavo in due e me la mangiavo prima una metà, poi l'altra. Chi ti sa il coltellino piccolo in tasca? Le posso io piccoli sono le spiccioli. Prendo questo e apre via. 10 giorni in Pasqua ho visto da l'aperto, ho già iniziato ad aggiustare. Mi sembra che nascerà la nuova Crai di Mura. Oh! No, io non ne metto più coltellino, da quando sono andato in tribunale ce l'avevo nel morsello, praticamente sono andato a fare la testimonianza. E c'era la guardia giurata e mi ha bloccato, mi ha detto lì c'è un coltello in tasca, ho detto c'è un coltellino che uso per aprire le pedane per lavoro, non è che, no no me lo dia qua, lo sa che lì è passibile di denuncia con la legge nuova che hanno fatto, ho detto ma non c'è manco quattro dita, no non esiste più quella legge, con la nuova legge che hanno fatto lì è passibile di denuncia, adesso io glielo prendo più quando lì riesce glielo ritorno, però si ricorda di non metterlo più in tasca. Così è, c'è metà che del testo che dice tutto. Io se sono dopo a Mario di Sardegna, prima di entrare, quando c'è luna e sole, metto tutto quanto, il borsellino che c'è coltellina, spiccia, eccetera, in quella cassettina con cui tengo la chiave, entro in banca tranquillamente. Perché c'è anche la guardia giurata, non lì che sono a noi. No. Io so già che c'ho il coltellino, anche se piccolino, quindi metto tutto dentro e c'è la mia luce. Dai, frate, ti picchiamo. Dai, glielo credo. Sì, ciao Gianni, ciao Tonino. Beh, tutto a posto a Genova. Ah. Non sei a Genova. Oh, io sento male a Tonino. Ma cosa mi senti male? Aspetta, a vedere quanto è questo coso qua. Ecco, così mi senti meglio. Sì, Tonino, ma è troppo forte il cazzo, boh. Siamo due gatti, siamo vicini. Siamo amplificato, sì. Lo so, ho abbassato me. No, ho abbassato ancora, va bene così. Sì, stavi dicendo. Ho detto, ma non sei andato fuori, è meglio. Concluso hai. Ho capito, con... Non sei andato fuori, è trabacco. Sì, concluso cosa. Sono andato a prendere lavoro, l'abbiamo già fatto. L'ultima tenda l'abbiamo presa stamattina, ad Alghero. Dentro se le mosche. Io pensavo che era un lavoro un po' prolungato. Ma già sto lavoricchiando, dai. Già va bene allora, dai. Andavate già. E dopo è a Genova. Ho fatto Genova Ancona. Ancona, Genova, Genova. facendo? Io ti ci sto. Ho capito. E vabbè, dove prendere gli appalti, vai. No, abbiamo preso l'avvolo da lì. Portare giù qua sette ne volevano tot di soldi. Yeah. Andando a prenderne lui ha risparmiato un sacco di soldi. Che ha pagato. Andava. E poi Tony, cosa ti stai comprando? Non ho capito tu. Cosa mi sto comprando? Ma veramente non mi sto comprando niente. Gli apparecchi? No, ho sentito che stavi cercando, boh, non so che cosa. I Galaxy. No, ho detto più là, se trovo un Galaxy me la prendo, più là. Sarà fra 6 mesi o un anno, no, non interessa, per il momento non mi interessa, mi basta questo qua o già. Sì, infatti, interessate a parlare. Guarda, gli apparecchi basta averne due se è a posto, perché se uno si rompe c'è l'altro, però averne più di due è tutta la fissilia, tutta la fissazione nostra per vedere gli apparecchi davanti, eccetera. E io ne avevo fare roba di dolci, non ti date via buoni, io due soltanto, mentre il canale che sto qua, me lo basta, mi basta così, capito? Tanto, dove si mutano? 10, 23, oh, dai cigari non esci. Ma poi interessate l'antenna, non sono tanto gli apparati, puoi uscire con l'apparato e 5 watt, è l'antenna che è buona, non va da tutte le parti. Sì, ma io sto pensando di buscarmi due pali di innocenti da 6 metri l'uno. Vuoi mettere 12 metri di palo più la tenna. Ma che ti non faccio male, la buccia ancora parano via che non vedo di una pentera, eccetera, ui. Ma lasciati qui, li sto uscendo bene lo stesso, vedati da fuori. Già, come ti va già la pentera? Cosa tu vuole tutti li dirà, come ce l'ha adesso. Ed è ficcato in un palo che c'è il calcestruzzo, dunque tra le mezze calcestruzzo, ho fatto un pritto, e di andà, oh, un riccio lungo. Vedi tutto lì. Ah, adesso non è che esci male. Quella che poi non ha detto, più alzi, magari adesso l'ostacolo non lo trovi a quella testa, qui alzi di più e trovi l'ostacolo, e invece che uscire meglio ci peggio, non è che tante volte è un'incognita alzare. No, che il 24 aprile comincio a messaggiare con gli alieni, io sono a posto, avanti Luca. Luca. E comunque stanno uscendo su internet che hanno avvistato UFO a Roma, a Terni, da nome di parti hanno trovato, hanno visto, avvistato UFO, hanno fatto i filmati. Dice anche dietro la luna c'è roba di UFO, ma non lo so. Ma io mi dico sempre questo, già. Se questi sono così potenti di arrivare con l'astronave alla velocità della luce, fanno centinaia, migliaia e milioni di chilometri di luce, poi perché hanno paura di farsi vedere da noi? Punto interrogativo. Ecco, è come che io entro in una camera, ci sono 10 bambini di 5-6 anni. Io non temo, io entro, anche perché sono superiore. Dici, cosa ne datemi? No, ci vogliono scoprire, capito? Vogliono scoprire come viviamo, tutte queste cose qua. Diciamo che c'è qualcuno che ha avvistato e ha filmato gli UFO, ho visto un UFO, cavolo, che era davanti, proprio a questo qua che lo stava filmando, di colpo, boom, è sparito. Ma, e non ha perduto. E noi per loro saremo mostri come loro sono mostri per noi, capito? Ma io dico questo, sì, ci credo, perché non ci devo credere, mica esistiamo solo noi, forse il nostro sistema solare esistiamo solo noi. Tu fatti conto che ogni stella è un sole, perché è un sole, e quindi ogni sole avrà i suoi pianeti. L'universo è immenso, quindi noi già esistiamo, ma la cosa che a me mi rimane perplesso è che questi cavolo è che noi siamo sospesi nello spazio, come la Luna e altri pianeti, perché non c'è forza di gravità, non c'è niente. Ma per me si dice, oh, che razza di cosa, sospesi. Senti che capitasse due extraterrestri davanti, cosa faresti? Io devo collaborare. Sono mostriciattoli e sono brutti. Ma io ho visto un filmato dove si fermavano su un campo con l'UFO, scendevano da questa scaletta e c'erano loro che stavano scendendo. Poi hanno preso qualche cosa da questo campo, hanno raccolto tipo terra, roba del genere, sono risaliti e sono ripartiti. Cercano sempre di... addirittura questa donna di Cagliari dice che lì l'hanno rapita, l'hanno messa incinta ed ha partorito questo essere strano. Ma comunque guarda, per fare soldi è facile, no Gianni, io volevo guadagnare un bel po' di patri, dico, sì, e comincio a dire che ho visto gli extraterrestri, mi hanno catturato, poi dopo un mese mi hanno rilasciato, posso raccontare tutta la sua storia, però mi devono pagare, e a me mi paga, comincio a raccontare cazzate, e ci andiamo con fantasia. Te ne ricordi quello di Stintino che era andato da Valito e Costanzo e ha raccontato un bel di balle, ha detto che aveva pescato un polpo, l'ha messo dentro al frigorifero, poi l'ha preso, si è messo a bollire, a un certo punto vede il polpo uscendo dalla pentola, era ancora vivo, è uscito dalla pentola e dice che era un mostro, che era enorme. Se ne è fuggito con le zampe in aria, correnti, e ci agiva pure le botte a Dennis. Un'altra volta ha detto che si è messo a fare la pipì e non scendeva, guardate, c'erano le stalattiti dal freddo che c'era. Per carità, state se voi niente, guarda che... Forse no, quando c'era la corrida, mi... Grazie. È andato il tuo tipo, Riccio, il fuoco artificio. Cazzo, l'ho fatto le dita. È quello che faceva con l'ascella, che faceva le scorreggi con l'ascella. A suon di musica andava. Sì, anche quello. Il maestro pregativo gli piccia delle risate. Come quello stesso, avanti un altro, con Luca Laurenti, Paolo Boronis. Come si chiama? Olimpia, che siamo nieri di. Ehi, guarda, Corrado bastava guardarlo in faccia, era una cioffra, solo a guardarlo ti faceva crepare dalle risate, come faceva la faccia, poi si guardava il maestro Bregadio, loro si intendevano tra di loro e si sfasciavano dalle risate. Vabbè, io che non sopporto quello che ha detto la televisione Ursi, perché è morto Gigi Riva. Praticamente Solinas, il presidente della regione, sin quando non c'è funerale la Sardegna è in lutto, ma non ti date una bara. E se muore un poveraccio e non ti nutta, allora se è morto, quando è morto Berlusconi l'Italia va in lutto tutta l'Italia, ma lì è tutto macabro. E vabbè, Giuliva era un cacciatore storico, a parte che era una brava persona, ma era un cacciatore storico, lui si è affezionato alla Sardegna. Gli hanno fatto mille proposte di andare in altre squadre, non c'è mai voluto andare, è voluto stare sempre qua, capito? Era affezionato alla Sardegna, quindi la Sardegna qualcosa gliela deve, dai. Sì, ma non può dire tutta la Sardegna è tutto. Vabbè, vabbè, ripeto, non lo conosco. È morto mio nipote, l'ha già preso 44 anni, è fatto, e nessuno è tutta, allora. E io ci arriva, chi lo conoscevo, e per me frega a me. Anche loro giustamente mio nipote lo conoscevano. Certo, muore poveraccio e non disfrutta nessuno, muore uno di inizio e va su un casino. Come lo stesso quell'altro delinquente, assassino della mafia, come si chiamava? Messina Dollar, ma come si chiama? Denaro, comunque. E tra due giorni ha favitato proprio il DCD. Una vergogna, pare di un assassino per tanti giorni, ma stiamo scherzando. E poi trattato con tutti i riguardi, non gli hanno messo le manette, niente, proprio, cioè trattato come un capo mafia, ecco, trattato così. E quante persone ha ammazzato, nel cemento, nell'acido, ai bambini, pure ammazza di varia. E l'unica cosa da fare è quello che ha fatto, che Gesù Cristo ha tolto fuori dal cammino, ma 10.000 mesi, fa carità, l'antitratto al suo cantante. No. Non va bene e non va bene. Purtroppo la televisione non sa più cosa fare, non sa più cosa dare, agli utenti, quindi automaticamente tutti incazzati, se ne dicono, infatti qualche cosa non sai cosa guardo? Guardo i documentari, qualche programma tipo quello di Maria De Filippi, però quello lì mi fa rattristare, molte volte mi fa rattristare, tipo la storia che c'era di Sassari, l'hai visto con la storia di quello di Sassari? Scappa, c'è supposta per te. Sono cose che ti fanno scendere le lacrime, ma sono cose belle da vedere. E quei programmi lì mi piacciono, mi piacciono anche quelli che fa Gerry Scotti, programmi di canto, di cose sì, guardo, però film non riesco più a guardare, ma che mi trovo. Altrettanto di anch'io, non riesco più a guardare niente. Comunque stavamo con la pubblicità che tra breve ci sarà di nuovo lo show di record, quello già me lo guardo. La nota l'ho dato, quindi è un ripassamento di show di record, l'ho già dato. Quindi me ne guardo, chiede se private, eccetera, tu io con la roba me ne guardo. Poi ci discuti, diciamo che è un personaggio che a me mi è sempre piaciuto, una persona seria, è una persona abbastanza equilibrata, un tipo che sa parlare, tiene compagnia, è una persona, ok, come Maria De Filippi è la stessa cosa. Beh, Maria De Filippi io lo giudico anche una psicologa, brava psicologa, perché quando vai a c'è posta per te, quello comincia no e no e no e no, e da conflitti e ragionamenti, entra in campo e poi alla fine apro la busta. Sì, ci sa fare. E quello lì dipende molto dalla sensibilità di una persona, anche Gerry Scotti è molto sensibile, tanto è vero che c'è tante cose si commuove. Sì, perché vuol dire che anche lui è una persona come noi, dai, giustamente anche noi a volte ci commuoviamo quando vediamo un programma, diciamo, di Gesù posa per te, racconto la storia, quello è morto la mamma, quello la faceva questo, faceva quell'altro, non sapeva come fare, quello che dice il padre, sono tante storie che prendono il cuore, capito? Quindi solamente tutte le pressioni difficilmente in quel programma che ti concentri praticamente sei come che ti succede se a te una cosa del genere, quindi ti commuovi, giustamente. Beh, a me piace lo stesso, cioè io lo guardo, però per gli ultimi punti e guarda, c'ho bene Filippo e poi mi trovo in buonanotte. Dove la volta guardano tutto più da tardi e anche a me prima io, ma io per dire, poi mi accendo il cellulare, ma sto su TikTok eccetera eccetera, ma sto fino alle 2, le 2 e mezza, però davanti al televisore sul divano mi trovo, chissà perché, mi concilia il sonno. E ho diventato, via, ti dico anch'io. Purtroppo è così già, a me mi fa sempre un sonno. Mi sono pregato i bini che mi piacciono, vedrò, vabbè, pazienza. Mi guardo, c'è uomo e donne, però oggi non l'ho potuto guardare che sono dovuto uscire perché mi hanno chiamato e quindi sono dovuto uscire a fare cose come ci vuole. Domani stamattina sono impegnato, lo stesso. Vabbè, dai, comunque. Ma molte volte mi alzo, per dirvi io quando è avanti mi sono alzato alle 4 al mattino, non c'ho più sonno, spesso a poco, è un casino, mi dormo presto perché mi addormento presto, perché era tutta la giornata, se la parte all'altra ti stanchi ancora di più e quando sei nel letto, oh, c'è un po' di calduccio, ciao, spegni tutto e buonanotte. Ma poi non ti hanno più chiamato da uomini e donne? Ho chiamato io da poco, e metto qua, la metto in lista, e poi lo senti svenuta, e si temo, se mi chiama nel mezzo se la piglia luce. Ma in base a cosa funziona il fatto di chiamarti? Ti fanno fare qualche quiz, qualche cosa, qualche domanda, qualche cosa così? Allora, a me mi hanno chiamato a Roma e sono andato. E dirò che mi hanno fatto un provino, mi hanno fatto fare un quiz di 10 domande. Mi hanno illuso un po' che mi chiamavano entro agosto, che c'era la registrazione, invece non me ne mai chiamato. Ho chiamato già due volte e niente, e mi dicono se la mettiamo in lista, però ancora non sta per la peggio. Adesso, o vogliono persone, cosa ne so, magra, beh, con la partita, si dice no, meglio che c'è un equilibrio. Ho pensato a questo, ho detto, devo dimagrire. Ah, ma non c'entra nulla, ci sono altre persone anziane, persone vecchie. E infatti, ma è l'età che c'avevo, ho detto, ma io quest'anno faccio 70 anni. Ho cercato una persona persona che è molto gettonata, perché prima c'è un'altra persona, mi chiamavano mai, quando ho cercato questa persona subito mi hanno chiamato e ha fatto il provino. E veniamo con gli etti, oh yeah, vabbè, no. Mi sono divertito 2 giorni a Roma, sono stato con mia figlia e ti dirò che abbiamo trovato questo albergo che sotto era tutto pieno di ristoranti e non ti abbiamo mangiato la carbonara. Oh già, sai che mezzogiorno è cena, io volevo sempre la carbonara, che se poteva buona. E a Roma la specialità, la carbonara la fanno bene, la fanno molto cremosa, molto, anch'io l'ho mangiato. E ho mangiato anche, come si diceva, la bistecca quella grande, come si chiama, la fiorentina di quelle grandi. La carne è molto buona lì a Roma. Che volevo dirti, sì, in effetti, poi ti ha fatto questo bel burrodino, cazzo, come la fanno loro questa carbonara micidiale, come non ce n'è qua. E niente, mi ha finito a occhio a testa qua, perché io non ho preso un pesce in padone, quindi il metropolitano è stato più vicino a me, mi ha preso il metropolitano, cambiate 2 o 3 metropolitane, in casino siamo andati, ma vabbè, comunque. Dirò un altro viaggetto, me lo faremo volentieri, a me se mi chiamano, domani che domani sono con gli appartenti, per Maria di Filippi. Allora, loro fanno così, ti fanno pagare, questa volta se ti chiamano per il programma, e il viaggio non lo paghi. Ti offrono l'albergo, mangiare e dormire. Ok. In un giorno loro fanno una recitazione di 8 ore, 8, 9, 10 ore. Automaticamente poi te ne entri a casa tua. E vai solo fine settimana. Con quale altre 10 ore? Tu fatti conto che ogni giorno le danno 3/4 d'ora. Quindi inizia alle 3:15 e finisce alle 4 circa. Quindi fate conto, quasi un'ora dai. La settimana è fatta di 5 giorni perché loro c'è da lunedì al venerdì e basta. Quindi a voglia di registrazione già, ecco come funziona, capito? Ti vestono loro, ti toccano loro e ti danno tutto quanto loro. Cosa vuoi di più? E ti danno il ricettore presente. E ogni fine settimana tocca viaggiare. Scappa, vai in aereo, ora qualcosa si sa. Come a prenderti un appartamentino, una cameretta, se vi state lì, se no tocca viaggiare ogni bus. E vabbè, magari ti ospita, come si chiama, la tua pretendente, la tua pretendente. No, ma io non posso stare giorni là, io sono i figliuzzi, i canucci, no, non li mollo manco come le palle. Se manco un giorno faccio venire mia figlia per la notte, un giorno sì, ma di più no già. Beh, però già ti capisco, Ormai ci ho pensionato, dai. Quanto sei maschiettina. E voi, come si capita? Guarda, tu che dire. E poi quando esco la mattina, poi ritorno verso mezzo l'una, oh, le feste che mi fa, pare gioco mancato un anno, che cavolo. E anche Tesoro è così, anche Tesoro, non è che riesco a fare la spesa, poi ritorno, lui si muore a brincare, fa, mi salta addosso. E sono ben affettuosi, dai, no. Vedi un cane amico con un amico cane, il cane non ti tradisce mai già, anche se tu lo svidi, lo scolaccione, lui viene sempre, ti bacia, ti lecca, sono affettuosi, dai, cane. Io non le ho mai toccate perché sono i 2 cuoricini di me, sono troppo belli. Sì, è così. Se torni tardi, stai con una donna, ti fa il muso perché sei tornato tardi. Se torni tardi col cane ti va di rivesci. Ma tu pensa, io quando ho il baracchino, la porta aperta, non entro, c'ho l'altro coperto che loro ci appoggiano, mi superano di piedi. Quando c'ho con la compagna qua, io chiudo la porta, loro domani li vanno dentro. E rompo le palle perché si sente, non ho muri variati, e fine di dire, mangia, cuccia, bella tanta. Capito? E quindi, purtroppo non si affezionati, i miei cucci c'ero già, dopo di 4 anni, fate conto, avevo 2 mesi quando avevo quando li ho presi. Io ce l'ho 8 anni, ma per me è sempre come se fosse un'ombra, ovunque vado, anche quando vado in mano mi perseguita, senti tic tic tic tic tic tic. Sempre lo stesso, si vuole applicare e mi dopo si accumulo, è andato un casino, che ha la cuccia, non puoi neanche andare in mano che ti rompo le palle, ya. Mamma, rientro in casa, vado in bagno, faccio fare la ginocchia. E tutti poi si dicono, dove vado io? Ma che tuttora dove vado io? Mi dicono anche loro. Se esco fuori, non esco fuori il giardino. Io per cucina, ma in cucina, vado in bagno, non prego in bagno, vado in camera, non prego in camera. E il peso non è uguale, sta sempre appresso, perché l'ho letto su un coso, ti prendono come se fossi la madre, capito? E ti seguono perché è come se fossi tu la madre, e quindi loro ti vengono sempre appresso, ti leccano, ti fanno. A me anche quando sono coricato nel divano mi lecca la mano, si struscia tutto per accarezzarlo, poi col muso mi dà i colpi per accarezzarlo, mi dà i colpi col muso. Ma io le accarezzo sempre, le compro. Li compro con la copertina sul divano, coccolati, io mi ci vado alla televisione, loro mi ci da me, mettono il musino sulla gamba mia, si addormenta, russa. Poi si dicono russa, non vedete lì a me. E come mi alzo, anche loro di colpo. O se sentono qualche rumore, partono in razzo, escono fuori direttamente. Oh yeah. Non fa che può cadere una foglia, loro la sentono subito e sono fuori di picchiata, raga. E lui lo stesso. Lui anche se c'è la serranda chiusa sente il rumore, io magari non li sento, lui li sente, però apri la serranda e vedi magari casino, eccetera. E così loro hanno un dito molto sviluppato. E perché gli danno fastidio a petardi, gli scoppi, le cose. Perché hanno l'udito sviluppato 60 volte più di noi, quindi immaginati, sentono amplificato. No, io so che tramite l'udito e l'olfatto hanno 100 volte più di noi. Sì, sì, è così anche l'olfatto, è la stessa cosa. Tu pensa che una volta eravamo, hai visto di fronte a casa che c'è con la rotonda, eravamo seduti lì e c'è quel prato che divide dalla chiesa quel muretto. Lui ha cominciato a abbaiare e voleva andare, mi tirava, alla fine l'ho portato, era al buio e in questo angolo sai cosa c'era? Un rizzo di marcia, ha sentito l'odore da lontano, ma grande mio, un rizzo di marcia di quelli grandi, non riuscivo manco a prenderlo perché mi pungeva. L'ho preso con un cartone perché c'era una coppia, lo voleva vedere e gliel'ho fatto vedere, l'ho preso con un cartone, gliel'ho fatto vedere e poi l'ho rimesso lì. Ma grande, non avevo mai visto così grossi. L'ho portato a casa, gli ho fatto la fotografia, infatti l'ho incorniciata e poi l'ho liberato. Si fa la pallina con tutte quelle spine, un casino, ci vuole quei grandi guanti in pelle grossa, ci vuole, capito? No, è utile, c'è per uno in casa, in braccio, in macchina, sono molto insalata, già, che sono in estinzione. Dicono che è molto buono quando lo cucinano, che bisogna anche saperlo cucinare, per se che avere una piscica e tu mangi chi su rizzo di mancia, dici che tu non pisci più. E l'ho detto anche questo, poi se balla è balla ti sto dicendo, se è verità, non so se l'hai mai sentito. Comunque sì, siamo proprio spinti che sono troppo tuoi. Io quando tornavo da casa di Sardo la notte, sai quando la trovavo alla fine di Marrizza, un me, rallentavo e non le mettevo sotto, le facevo attraversare, poverini. Qualche non lo trovavo morto, lei si schiacciava, fatene bene, raga. E dopo sai cosa fanno? Danno i colpi con le spine per pungerti, capito? Danno i colpi, tac, tac, tac, e lo fanno per pungerti, per quello che ti fanno male quando li prendi, perché ti danno i colpi. No, questo qui l'ho messo sul tavolo, si è aperto, quando si è aperto gli ho fatto la fotografia, poi l'ho liberato, allo stesso punto dopo l'ho trovato, quindi non è che ho rischiato perché non si dovrebbero prendere, perché non si dovrebbero nemmeno prendere, però l'ho rimesso dove l'ho trovato, quindi non penso di aver fatto una cosa sbagliata. Ebbene, no, è meglio liberi poverini, anche loro devi vivere, dai. Niente, io la settimana scorsa mi stavo facendo crescere la barba, ho già. Ce l'avevo quasi un mese. Mi sembrava un porco spino, la portatura ancora di porco spini. La giambigliata me l'ha tagliata tutta, ho detto no, non è per me. No, io la odio. No, a me non piacciono le persone con la barba. A meno che sia una barba corta e bella curata, con dei tagli perfetti, allora a certe persone sta bene, ma quelli brutto barbuni così non mi piace, brutto, sembrano trascurati, è tipico del sardo, dei paesi, del nuorese, cose così, se la lasciano crescere così. Tu piglia, vabbè Pigliosso, barboncino che lui è diventato, un bel barbone. Ma uè, capa. Molto lunga ce l'ha. Vabbè, forte, ma non è, ah, ci vado, ma ah, ti la capica, che ti faccio più vincio, fa. Poi, ci ha fatto così, per tapparsi di barri, che grassetti. No, ma a me non piace, sinceramente, poi dipende sempre dai gusti. A me piace un pizzetto, così sì, però sempre curato, come me lo curo io, eccetera. Ma barba lunga non mi piace, a parte che quando mangi danno tutto il cibo, vabbè. Mio fratello che ha giunto, ha detto, cazzo, mi sembra il Babbo Natale, fede di tutto bianco in realtà, poi ce l'ha fatta, ha detto, no, non lo trascurare più così, ha fatto la crescita lunga, e se ne stai male, ca, mi pare un barbone, ca. Infatti, quella volta ci sarà taglia sempre, perché in taglia. Vabbè, dunque. Io già ho acceso un po' di mucchi, baracchino, il canale 10 ci ha messo uno, qualche volta il suo 23 c'è già Maria Contone, qualche volta Franco pure, proprio pio, oggi Natalino non è che sentito, sta ne ascolto. E magari è uscito, sta facendo cose, non lo so. E vabbè, dipende sempre dalla disponibilità che uno ha, c'è poco da fare. Interessante che si tenga sempre, che ci sia sempre qualcuno, perché se non sento nessuno non entra nessuno. Se c'è gente magari qualcuno entra. Ecco. Ma comunque, Antonio oggi ci ha fatto sentire. Una sera stavo salendo dalla Budimudi, che ora era? Di sabato. Verso le 8:30. Mi è venuta già questa voglia di fare lì. Mi sono fermato alla doccia dietro la Crai, che c'è la ruota, e ho preso una taglia piccolina, già da casa me la giovagnata. È buona era. Ma quella, la Crai, dove rimane? Vicino, quello che rimane nella salita un po', alla fine della salita, dove c'è la farmacia? No, guarda che la Crai di fronte c'ha la locomotiva alla Teologia, locomotiva antica, di fronte c'è la Crai. Ah, ho capito, dai, no, prima c'era il negozio della Sisari. Adesso se vuoi vai più dietro c'è il negozio della Fine, la ruota si chiama. Sì, che è buona, dai, non è che sia proprio malvagia comunque. Più buona la pacola di via San Donato, che c'è a Tomeno con la sorella. Buonissima veramente, infatti se vuoi piena di gente la devi prenotare, un casino. Oh, vabbè, fino alla giocata di andare in chiave a ore e ore per telefonarla, per prenotarlo. E una volta siamo andati insieme, te lo ricordi, siamo andati insieme, però uno è rimasto in macchina, anche in chiave, è sempre da timido. Lo so. Quello c'è coprifuoco lì, per carità, e infatti proprio per San Donato, che dopo che è successo casino con le pittori parenti, ammazza di levare i negri. Ma cosa stanno aspettando ad andare fuori di via, mandarci di via tutti quanti? Cavolo, il questore cosa ci sta a fare? Hanno sparato, hanno fatto, ma chi non ti rimandi? Cosa gli lascia fare, no, che a tenere, a mettere in pericolo le persone, anche le scuole, il vicino, tutto quanto, c'erano bambini, cioè sparano qui, magari ci sono dei proiettili varanti che prendono qualcuno senza averne colpo. Perché per me ci mangia il sindaco, lo dico a voce alta, e ci mangia un bel di soldi a questa gente, e ti spiego perché. Una persona ha cercato di aprire una paninoteca, un anno pagando l'affitto non gli dava il permesso, chi c'è animali come ti arrivi in tassi, apre il negozio, ha trovato subito il permesso, e allora c'è qualcosa sotto. E chi lo sa cosa c'è di sotto, noi... siamo poveri mortali che queste cose non riusciamo a saperle, però c'è gente che le sa, è normale. E vabbè, il marciume, come diceva mio padre, c'era tutte le parti. Siamo in un mondo marcio, diceva mio padre. Purtroppo è così. Già. Mio perché l'altro giorno sta parlando che me ne vado fuori. Sì. È il mio sogno di cassetta, me lo faccio già. Un giorno o l'altro me ne vado via, veramente. E lo faccio di vero cuore perché sono stanco. Stanco che mi mangiano i soldi di questi pezzi di merda. Adesso ti spiego un'altra cosa. Che io la televisione ascolto molto. Ed è vero quello che dice Giorgia Meloni, che si è accorta del grande truffa che ha fatto il governo di PD. Questo 110, la mazza di rifare, sono miliardi, miliardi, miliardi. Ebbene, hanno studiato quella, l'hanno studiata, il PD. Tanto le paghiamo noi, poveracci. Vedi che non metto a maniera, non metto a mangiare, tu spendi, spendi, i soldi non ti bastano più. Perché? Perché automaticamente quei soldi che togliamo dal governo le paghiamo noi. E quindi loro si arricchivano sempre di più. E le casse dello Stato si svoltavano, mangiavano loro, mangiavano tutti quanti. E il poveraccio andava sempre più povero, purtroppo è così. Questo è quindi che hanno scoperto che sono stato un grande truffa di miliardi, la mazza gliene scelta. Invece aumentare gli stipendi degli operai e aumentare le pensioni, che farò schifo le pensioni da povero. Ecco perché io me ne voglio andare via. Ma io ho le palle piene. Poi non parliamo di giudici corrotti, la mafia sono i giudici, a parte il governo ma anche i giudici. Quello perché è scomunitario, è matto di base di nulla. Uno va a rubare una mela e 10 anni galera. Quindi è tutta sbagliata questa legge. Perché anche i rumini, quando mi erano interrogati dei ieri, hanno detto noi veniamo in Italia. Perché se io ammazzo una persona non mi fanno niente. La legge qua invece, se rubi una mela ti erano 30 anni galera. Quindi quando si può fare in Romania, hai capito? L'hanno dichiarato che era tonto. Noi veniamo in Italia perché siamo troppo bene. Quali ragioni? Poi, reddito di cittadinanza, l'allenando a porci comodi, persone che addirittura non venivano mai in Italia, 9.000 persone, penso un po' extra comunitari, galera. Io lì avrei arrestato e fate pagare quello che possedevano, tutti il campo che hanno fatto la domanda, perché tu non puoi fare la domanda alla persona delinquente che ti ha dato, troppo forensi, troppo casino, quindi non c'è proprio religione, è tutta una truffa. E allora io, mezzo a questa gente, politici di merda che sono tutti uguali, destra o sinistra, non me ne frega niente, io me ne vado fuori e su di me ne godo fuori a Giorgia. Se la pensi così, fallo, sicuro che tu se ti va bene, se no te ne dori, perché anche Lucio Rogentiliana era stato in Francia, perché lì si pagavano tutto, ci sono meno tasse, e lui è rimasto sempre in Francia, aveva sempre il desiderio di tornare in Sardegna, perché sono sardi, erano sardi tutti e due, lui ha lavorato in fabbrica tanti anni, ma dice che aveva una pensione da Dio, lì, capito? Una buona pensione, se io vengo in Italia me ne danno la metà. Ma ci credo, ma è così, dai. Siamo l'Italia, lo zimbello dell'Europa, che è una vergogna. Vabbè. Ok, dai, già, meno un quarto, io adesso mi scatto quel mese piccino che avevo fatto con patate, l'ho fatto sciogliere, ma è troppo buono. Purtroppo oggi ho fatto tanto, ho mangiato altra roba e quello l'ho messo in frigo, adesso me ne mangio adesso. Ok, grazie del consiglio, lo proseguo con carica quando lo farai, saluto gli amici che sono in ascolto, ci sentiamo già, stai bene, a domani, se Dio vuole, ciao ciao. Ciao ciao Tony, ci sentiamo, dai, andà a vedere, detto te se mi sta chiamando per scendere, ciao ciao, buonanotte. Ok, ciao ciao.